e all'inmila e lì gestisci un lanciano di Yamia 24 mattino. Allora, siamo qui alle 7:20 minuti. Buongiorno e ben ritrovati, cari ascoltatori. Questo è lo spazio della rassegna stampa di 24 mattino. Leggiamo con voi, per voi, insieme a voi i giornali che trovate in edicola. Andiamo, caro Peter. Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. È martedì 29 novembre e le aperture sono tutte declinate sul referendum, ma anche sulla situazione finanziaria. Le banche piegano le borse, MPS meno 13,8%, via la conversione. Questo è il titolo, per esempio, di apertura del Sole 24 ore. Così il Corriere della Sera, voto le tensioni sulla borsa. La Stampa, effetto referendum su spread e mercati, tremano le banche. Per il giorno voto tremano i mercati. Il Messaggero, voto e banche, mercati in ansia. Mentre il Manifesto la mette così: il no sbanca, nel senso delle banche. Mentre il Fatto Quotidiano, Renzi straparla di tutto fuorché delle 8 banche che crollano. Per Repubblica invece l'altolà di Mattarella, sarò io l'arbitro dopo il referendum. Il giornale, Renzi si dimette anche se vince il sì. Questo è il titolo di prima pagina. L'Unità, siamo tutti italiani, oltre 4 milioni i nostri connazionali all'estero sono in aumento, anche il loro voto conta. Mentre La Verità mette il premier con le ali in prima pagina, la campagna a spese nostre, il fatto che per il suo forsennato, come viene definito, tour elettorale a favore del sì, Renzi utilizza tutti i giorni e più volte al giorno un Airbus 319 che costa 12.000 euro all'ora, ovviamente pagato da tutti. Vediamo tra poco altre due aperture, le ho tenute da parte, di quotidiani. Prima, vabbè, la notizia che non trovate sui giornali perché si è diffusa nella notte, ma è una notizia che porta ancora protagonista e non per fatti edificanti, l'Apo Elkan. L'Apo Elkan, raccontano le agenzie, raccontano tre giornali di New York, visto che si trova lì, è stato arrestato e poi rilasciato dalla polizia di New York l'accusa di avere simulato un sequestro per ottenere dalla propria famiglia $10,000 per pagare una escort. Cioè, la vicenda raccontata dai giornali americani è questa: l'Apo Elkan avrebbe passato un weekend di sesso e droga, raccontano questi giornali, con una escort, poi finiti i soldi che ha fatto, ha telefonato alla propria famiglia dicendo dovete darmi $10,000 perché mi hanno sequestrato, c'è una donna che mi tiene sotto sequestro. In realtà semplicemente si è appurato, si sarebbe appurato che aveva, come dire, finito i soldi utilizzati per questo scopo. E quindi quando la polizia ha scoperto che la sua richiesta non era per un sequestro ma per pagare una escort, è scattata la denuncia per simulazione di sequestro. Comunque è l'apertura in realtà di tutti i siti online, anche italiani, ma la notizia, se non sparsa nella notte, non la troverete sui giornali. Comunque, dicevo, le aperture che ho tralasciato, una è quella di Avvenire, il futuro che manca. Avvenire si concentra sulle nascite ancora in calo, lo certifica l'Istat, meno 17.000 nati nel 2015 rispetto al 2014, le culle sono sempre più vuote, denatalità è emergenza nazionale, non facciamo figli, è l'anno peggiore in 150 anni di storia italiana. Il consuntivo Istat, diffuso ieri, su natalità e fecondità non sembra lasciare margini di valutazioni positive, racconta Luciano Moia sul quotidiano Avvenire a pagina 7. I dati confermano un calo di quasi 17.000 nascite rispetto all'anno precedente, il 2014. Lo scorso anno gli figli iscritti all'anagrafe sono stati 485.780, mai così in basso. Facciamo sempre meno figli è anche il titolo del Corriere della Sera. Un qualcosa che dovrebbe in qualche modo allarmarci. Voglio mettere qui, proprio a fianco a questa notizia, la notizia dei 117 anni di Emma Morano. Chi è? Nata il 29 novembre 1800. 1899, data di nascita del grande Milan, l'associazione calcio Milan, è nata con il Milan il 1899, 117 anni compiuti oggi a Verbania. Ivan Fossati racconta sulla stampa di questa nonna che ha record del mondo per quel che riguarda l'età, e si racconta del solito trucco, quali sono i trucchi, l'alimentazione forse pare no, visto che è golosa di savoiardi, a chiunque la vada a trovare chiede una scatola di savoiardi, e ha mangiato per tutta la vita 3 uova al giorno, che non è proprio una di quelle cose che qualsiasi dottore ti consiglierebbe. Eppure eccola qua, Emma Morano, 117 anni, la stampa racconta la sua storia a pagina 23. La storia che vi voglio raccontare, questa invece è una storia dolorosa oltre che misteriosa, è raccontata dal Corriere della Sera, è raccontata dal Messaggero, è raccontata dal Giorno, messa addirittura in prima pagina, come notizia principale. È la vicenda di un militare che si è tolto la vita, almeno questa è la versione ufficiale, anche se i familiari non credono. Il titolo del Giorno in prima pagina è Il soldato che sapeva troppo. Ombre sul suicidio di un capitano, il capitano Marco Callegaro, soldato che a Kabul in Afghanistan si tolse la vita, appunto, questa è la versione ufficiale. 6 ufficiali ora sono indagati per la truffa delle auto blindate. È una vicenda, guardate per esempio il Corriere della Sera, a pagina 22. I mezzi su cui hanno viaggiato dal 2009 al 2014 ministri, ambasciatori, politici in visita alla missione militare italiana in Afghanistan hanno esposto a rischi ulteriori tutte queste personalità, perché la blindatura dei veicoli era più leggera di quella prevista, secondo quanto accertato dalla Procura Militare di Roma in un'inchiesta che vede indagati per truffa aggravata e peculato 4 ufficiali dell'esercito e 2 dell'aeronautica. Cosa c'entra con Marco Callegaro? È che questo militare aveva denunciato proprio questa cosa, lo denunciava continuamente, e allora ecco che il padre, intervistato dal Giorno a pagina 3, dice: ora vorrei finalmente che fosse fatta piena luce sulla morte di mio figlio, speriamo che vengano riaperte le indagini se erano state chiuse, perché ancora io non so nulla, anzi non ho mai saputo nulla. Né io né mia moglie abbiamo mai creduto al suicidio di Marco, non ne aveva motivo. E racconta effettivamente il Giorno, questo capitano era un soldato che trascorreva la giornata a fare conti, quelli militari, era una brava persona, onesta, prima di morire si era impegnato a gestire meglio i fondi dell'esercito che a suo dire venivano sprecati. Scrisse al padre: voglio far risparmiare l'Italia. E il 25 luglio 2010 l'hanno trovato ucciso con un colpo di pistola nel suo ufficio all'aeroporto di Kabul a 37 anni. Venne archiviato il caso come suicidio, ma il Giorno, la famiglia, il Corriere raccontano che questa versione non è creduta dai familiari e che vorrebbero vedere se c'è qualcosa in realtà di più misterioso dietro queste denunce che il figlio faceva e poi questo epilogo tragico. Ma mi sono tenuto un'altra apertura che dà invece la linea al premio Mani sul volante, se siete alla guida, l'articolo, cioè che mi fa pensare della giornata, ed è la notizia che viene diffusa in prima pagina da Libero e poi a pagina 2 il resoconto. E il racconto di Libero è questo: l'Unione Europea, o meglio i funzionari, i dipendenti dell'Unione Europea, si aumentano lo stipendio con un aumento della 3,3% retroattivo rispetto a un'inflazione media, insomma 3 volte rispetto all'inflazione media europea. Questo è l'articolo di prima pagina, e anche a pagina 2 si racconta di questa notizia con anche il commento di Vittorio Feltri, che vabbè, dice: ci dissangua così l'Unione Europea, danno soldi ai loro funzionari, bisogna uscire dall'euro come diritto di libertà. Questo è il commento, anche non condivisibile magari, di Vittorio Feltri, ma la notizia è questa: gli eurocrati intascano i soldi che ci rubano a Bruxelles, decidono di aumentare ai dipendenti dell'Unione Europea con un aumento retroattivo gli stipendi del 3,3%, è pari a 7 volte l'inflazione media dell'Unione. Non è possibile una roba del genere, vergognatevi, cazzo! È arrivato Milan, il super dotato dell'informazione. Adesso. Allora, le 7:35 minuti, cari ascoltatori, il referendum, mancano pochi giorni. Mattarella, intanto, Mattarella, perché qualcuno dice: ma come in questo clima, che dice il Presidente della Repubblica? Mattarella, ieri, parlando con alcuni studenti, ha usato la metafora dell'arbitro di calcio. E come racconta Emilia Patta sul Sole 24 Ore a pagina 15, faccio l'arbitro in silenzio. Ha detto il Presidente della Repubblica agli studenti: quando il gioco si svolge regolarmente, senza falli, senza irregolarità, l'arbitro neppure si nota, quasi non ci si accorge che sia in campo, interviene solo per regolare quando le cose non vanno. Il mio compito è un po' quello di fare l'arbitro, questo avviene spesso con due attività, esortazione e suggerimenti, cioè attraverso la persuasione, quindi è un lavoro che in larga parte non si vede, perché non si fa con i proclami. La persuasione è più efficace se non viene proclamata in pubblico. Tanto che questa frase di Mattarella la troviamo in prima pagina di Repubblica, l'altolà di Mattarella: sarò io l'arbitro dopo il referendum. E appunto il Presidente della Repubblica racconta di questo silenzio, ma la persuasione non vuole proclami. Come dire, non è vero che non intervengo. Intervengo anche se non lo si vede pubblicamente. Ho le due notizie più importanti riguardo al referendum, sono lo scenario del dopo voto e raccontano i quotidiani che l'ipotesi di dimissioni di Renzi ora ci sarebbe non solo se vincesse il no, ma anche se vincesse il sì. Questo è un cambio di passo che avviene a pochi giorni dal voto. Ed eccolo qui, Maria Teresa Meli, ipotesi dimissioni anche con il sì. Perché questo? Secondo il retroscena del Corriere della Sera, perché comunque vada a finire, c'è una novità intanto. Esiste già una bozza di possibile riforma dell'Italicum, cioè della legge elettorale. E perché Renzi potrebbe dimettersi anche nel caso di una vittoria del sì? Perché potrebbe andare da Mattarella a dire: nel 2014, quando è nato questo governo, c'era l'intento chiaro e inequivocabile da parte dell'ex presidente Napolitano di realizzare una riforma istituzionale, e ora che la riforma è realtà, l'esecutivo considera esaurito il compito. È chiaro, come scrive il Corriere, che in questo caso non sarebbero dimissioni per andarsene, ma piuttosto per rafforzare sia il proprio ruolo che il governo con una nuova fiducia. Questa è l'ipotesi secondo il Corriere della Sera. Repubblica invece racconta, sempre nel retroscena, di Tommaso Ciriaco e Alberto D'Argenio, in questo caso a pagina 3, che scalderebbe i motori. Lo so che dire queste cose in Italia non si può fare perché ci sarebbero mille smentite, ma in realtà si scalderebbero i motori per un possibile governo tecnico un governo Padoan guidato dal ministro dell'economia. Questo se dovesse vincere il no, dovesse esserci un passo indietro di Renzi, ecco allora che, racconta Repubblica, si guarda sempre più non a una soluzione alla Monti, quindi non un governo tecnico, né la ricerca di una maggioranza purché sia, semmai una staffetta con Piercarlo Padoan o chiunque altro maturata politicamente nel cuore dei democratici. Padoan è la persona che però i mercati vedono come un interlocutore che possa dare stabilità in questo momento. Vogliamo stabilità, racconta una fonte comunitaria di rango, e dunque l'Unione Europea. E non è un caso che il 5 dicembre Padoan sarà a Bruxelles e rassicurerà i colleghi europei riuniti per l'Eurogruppo. Comunque vada, ci sarà una rete di protezione per le finanze italiane. Questo è lo scenario di Repubblica, anche perché il tema è proprio questo, il nuovo attacco del Financial Times, la nuova accusa: attenzione, se vince il no, 8 banche rischiano di crollare, 8 banche rischiano di fallire. E infatti le borse ieri sono cadute molto, Milano sotto il peso proprio delle banche. E ci sono racconti e scenari su tutti i giornali, leggete per esempio Francesco Spini a pagina 3 della Stampa, aumenti più difficili, capitali in fuga, così la City teme l'effetto delle urne. Nelle banche d'affari inglesi, dove si parla solo quella lingua, si rubrica il referendum costituzionale la voce game changer, cioè un fattore che può cambiare le carte in tavola. In gioco c'è per Londra tamponare le falle che la mina dei crediti deteriorati per 360 miliardi esplodendo ha aperto nel sistema bancario italiano. E c'è l'analisi di Montepaschi, di Etruria e le altre già salvate un anno fa, di Popolare di Vicenza, di Veneto Banca, di Carige. Insomma, il Financial Times include queste banche come banche che possono crollare, fallire. Marcello Zacchè sul Giornale a pagina 3 scrive dal Financial Times un'entrata a gamba tesa, questo è terrorismo finanziario, mentre Federico Fubini racconta i conti veri delle banche a pagina 3 del Corriere della Sera. Racconta Fubini, in fondo il timore è questo, secondo il Financial Times, il crollo di alcune banche italiane, l'uscita dall'Unione Europea in pezzi. Di un'Unione Europea in pezzi che sembra però un qualcosa di meno costoso per la Gran Bretagna che confrontarsi contro invece un blocco compatto e disposto a espellere la Gran Bretagna dal maggior mercato del mondo. Il primo articolo era già apparso sull'Economist, il consiglio a votare no, e ora il Financial Times che alla vigilia del primo atto che dovrebbe portare a un aumento di capitale sul mercato per il Monte Paschi di Siena dice attenzione, c'è il rischio di fallimento delle banche. E le analisi sono queste. C'è Francesco Boccia del Partito Democratico che viene intervistato dal Fatto a pagina 3 da Marco Palombi e dice qui si gioca col fuoco, Renzi deve dire che interverrà lo Stato. Questa è l'analisi di Boccia. Uno Stato forte dice che applicherà l'articolo 47 della Costituzione che tutela il risparmio e se lo dice non succede più nulla, i mercati si mettono tranquilli. Riguardo al rischio del Financial Times, dice Boccia, ma di che parliamo? Quattro banche sarebbero Etruria e Company, che dovevano già essere state vendute da tempo. Se non ci si riesce, il problema forse non è la riforma costituzionale. Poi Popolare di Vicenza e Veneto Banca, ricapitalizzate da Atlante, servono altri soldi, si metteranno. E poi Carige e il vero problema, Monte Paschi Siena. Ma nessuno può minacciarci di nulla. Solo se smettiamo di far finta di nulla, dice Boccia. Se il governo fa il suo dovere e dice che l'articolo 47 della Carta vale qualunque sia l'esito del referendum e che lo Stato interviene comunque, i mercati stanno tranquilli e gli italiani possono votare senza ricatti sulla testa. Se invece dello Stato interviene JP Morgan, lo fa solo se ci guadagna e rischiamo di ballare, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. Boccia, peraltro, dice io, non è un segreto, sono per il sì, ma nessuno può utilizzare e deve usare il tema delle banche nel dibattito referendario. Vabbè, banche, soldi. A proposito di soldi, il Fatto Quotidiano critica, dopo aver fatto la stessa cosa con il presidente della campagna De Luca, il presidente dell'Abruzzo, ora D'Alfonso, anche lui incontrando dei sindaci, come racconta Gianluca Roselli, a pagina 7, avrebbe detto in pratica votate sì. Fate una campagna, cari sindaci, pancia a terra. In questi ultimi 7 giorni vi voglio vedere scatenati, avrebbe detto Luciano D'Alfonso, governatore PD dell'Abruzzo, ai sindaci. Scatenate anche le vostre mogli, che sono brave nella mobilitazione. Parlate coi genitori dei vostri figli. Fate un ultimo sforzo per il sì. Perché? Perché arriveranno i soldi per l'Abruzzo. Sempre la questione è quella solita. Arriveranno i soldi. A proposito sempre di soldi, La Verità invece mette in prima pagina il conto della spesa di campagna elettorale di Renzi, nel senso che, scrive il quotidiano Maurizio Belpietro, sta facendo una sfrenata campagna elettorale per il sì utilizzando l'aereo Airbus che, pagato da tutti gli italiani, costa 12.000 euro l'ora, pagato da tutti, anche quelli che voteranno no, racconta Giacomo Amadori, Renzi Premier, volante a 12.000 euro l'ora. Questa è la polemica messa a pagina 3. Vabbè, Meno male che c'è l'Inter oggi, dice invece Mauro Meazza. E allora dai. Su. Mauro Meazza! Signori, eccolo qua, Maurito. Buongiorno Alessandro. Sì, effettivamente ieri la gran gol hai fatto, divertente. Gran gol, il mio omonimo, diciamo, sì, ha fatto un gran gol. Voglio segnalarti che ieri è stata peraltro anche una giornata importante per la manovra, non vorrei che tu ti fossi distratto. No. Oggi sul Sole 24 Ore noi ti riferiamo anche sia il passaggio, appunto, questa approvazione alla manovra rapida, come è stato sottolineato, e poi si riprenderà a esaminare, perché siamo ancora al disegno di legge, si riprenderà a esaminare dopo il referendum, cioè, perché pare ci sia un dopo, no? Il mondo non dovrebbe finire domenica, credo. E, tra l'altro, oggi su Sole 24 Ore cominciamo a spiegarti invece l'antipasto della manovra. Sai il decreto fiscale, hai studiato? Sì. Tantissimo. Stare. Comunque, nel decreto fiscale, dove ci sono tante belle cose, tra cui la voluntary disclosure, non vorrei ti fossi distratto, ci sono anche le nuove misure sull'IVA che fanno un pochino impermalire i professionisti. Le spieghiamo, le illustriamo nelle prime due pagine di queste guide che andremo a fare per tutta la settimana, dedicate proprio ai nuovi obblighi IVA e il decreto legge fiscale. Impermalire è bello, me lo segno. Ti è piaciuto? Questo lo spendo. Allora, guarda, intanto che tu pensi a come spendere impermalire, che io ti regalo con grande generosità, volevo segnalarti l'articolo da meditazione di oggi, che sono due. L'articolo da meditazione di oggi è sui bot, parte nella nostra prima pagina e poi ne trovi la continuazione nelle pagine dei commenti inchiesti. I bot, non nel senso dei titoli di Stato, ma i robot che sono in grado di agire sui social network, quelli lì che frequenti tu anche con grande successo, come se fossero delle persone. Quindi tu pensi che una cosa abbia avuto milioni di like, in realtà sono dei robottini che mandano dei tweet o fingono di gradire qualcosa, non ci sono delle persone, ma è un articolo appunto da meditazione, meditaci. Sappi che oggi è martedì, caro Alessandro. E quindi il condominio. Oh, bravissimo. E la Cassazione, riferiamo oggi nelle pagine su condominio, la Cassazione ha precisato anche come valutare lo stalking del vicino. Non so se ci sono anche certe tue amenità durante i nostri incontri la mattina o queste cose che manda Peter di sottofondo, ma lo stalking del vicino come può essere valutato correttamente, la Cassazione lo spiega oggi nelle pagine di condominio. Non dimenticarti, con il Sole 24 Ore in edicola trovi i quaderni dell'esperto, il primo di 8 quaderni dedicato ad acquisto della casa, utilizzo di sconti fiscali. Non venire a cercarmelo al bar, perché guarda, non te ne do neanche una copia. Va preso in allegato Sole 24 Ore tutte le risposte ai dubbi più frequenti in materia di acquisto della casa e utilizzo degli sconti. Tutto ciò premesso, caro Alessandro, ti sento preoccupato. No, assolutamente. Sei concentrato? Concentratissimo. Ecco. Tutto ciò premesso, volevo dirti che l'Italian Sounding, cioè quelli che vendono la roba italiana, che l'italiano non è, mi mando dei nomi italiani, potrebbe valere qualcosa come 54 miliardi, perduti per chi invece esporta cose italiane vere. Ma lo trovi nelle pagine Imprese e Territori e io, caro Alessandro, ti saluto e ti auguro, come sempre, traffico! Alino Milan, il Fidel Castro dell'informazione. E va bene, cari ascoltatori. Allora, c'è da dire che tutti i giornali raccontano, cari pensionati, aprite bene le orecchie. Renzi ha annunciato che ci sarà un aumento non degli 80 euro, ma dei 30-50 euro in più per le pensioni più basse. Come racconta l'Unità con Bianca Di Giovanni a pagina 6, lo stesso Presidente del Consiglio nell'annunciare questa novità ha detto non è un annuncio all'Achille Lauro, no? La famosa vicenda ti do una scarpa e poi te ne do un'altra. Però è chiaro che invece molti altri quotidiani la vedono proprio così, e cioè come la mancetta fretta elettorale poco prima del voto. Comunque la vediate, anzi magari chiamateci, cari pensionati, così ci dite cosa ne pensate all'800 24 0024. Tanto tra poco alle 8 i centralini saranno aperti. Problemi anche per il Movimento 5 Stelle per le firme false. Con 13 indagati a Palermo si allarga l'inchiesta, nuovi avvisi, coinvolta una parlamentare, Giulia Di Vita, che dice: io non c'entro nulla, ho già parlato con i magistrati. Ma soprattutto a tempo di record, raccontano Emanuele Lauria e Salvo Palazzolo di Repubblica a pagina 9, c'è stata la espulsione, o meglio no, la sospensione dei deputati Riccardo Nuti, Claudia Mannino, Giulia Di Vita e dell'attivista palermitana Samantha Busalacchi da parte del Consiglio dei Probiviri del Movimento 5 Stelle. Loro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, non hanno neanche fatto la prova grafica, cioè non hanno neanche voluto fare la firma davanti ai magistrati. Comunque dal Movimento sono già stati sospesi, racconta Repubblica. Tra l'altro il Movimento 5 Stelle ha questo problemuccio col Papa, perché per la seconda volta, dopo le parole un po' dure di Fisichella, Monsignor Fisichella, ieri c'è stato un evento per i ringraziamenti del Giubileo e Virginia Raggi, sindaca di Roma, non è stata invitata. Raggi non invitata, gelo col Papa ai saluti del Giubileo. Repubblica, il Corriere della Sera: nessun invito a Raggi, è gelo, i rapporti difficili tra il Campidoglio e il Papa e il Vaticano. Questo raccontano tutti i giornali. Per la cronaca, c'è la condanna in primo grado all'ex sindaco di Genova Marta Vincenzi. 5 anni per l'alluvione del 4 novembre 2011, quando a Genova morirono 6 persone. Condannata per disastro, omicidio colposo e falso. Lei rilascia una serie di interviste. La sua linea è: colpita alle spalle, sono solo un bersaglio, è stato un processo politico. Non è finita qui, dice comunque Marta Vincenzi, spero negli altri gradi di giudizio. Ha lasciato l'aula alzando le tre dita, come dire, sono 3 i gradi di giudizio. Comunque tutti i giornali raccontano di questa vicenda. Vi segnalo invece sulla Stampa una bella inchiesta di Paolo Russo che riguarda la sanità e una denuncia di uno dei sindacati dei medici, la NAO, che dice: attenzione, c'è una fuga dagli ospedali, rischiano di sparire 40.000 specialisti. Lo faccio vedere anche nella mia pagina pubblica di Facebook. Vieni qua, Lorenzo Nespoli. Inquadriamo. Nel mirino, le assunzioni bloccate, i numeri chiusi. Fuga dagli ospedali, rischia di sparire 40.000 specialisti. Questa è la denuncia che trovate a pagina 12 e 13 della Stampa. Un'altra denuncia invece di Repubblica è questa. Attenzione, cuciniamo sempre meno. Addio ai fornelli, altro che MasterChef. Cioè, ci piace vedere quelli che cucinano. Mi piace vedere la TV. Oh, che bravo cuoco. Oh, di qui. Invece, racconta Ettore Livini, è il trionfo dei cibi precotti, dell'insalata in busta. Neanche tagliamo l'insalata, la laviamo. A guidare l'inversione di tendenza sono le donne lavoratrici e i millennials. Donne! A casa! A lavorare! A mondare l'insalata! A preparare i manicheretti ai vostri mariti! Vi piace questo appello? Molto poco sessista. Allora, vi segnalo anche una bella intervista di Caterina Soffici sul Fatto Quotidiano a Usain Bolt, che annuncia: non correrò più nemmeno al parco, questo è il mio ultimo anno, non farò neanche più, mi ritirerò in Giamaica, viaggerò il meno possibile. Comunque eccolo qua, Usain Bolt: non correrò più nemmeno al parco, è l'ultimo anno, così annuncia il velocista giamaicano. Ma siamo alla Carta Costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Basta queste lettere sociologiche dei film, dei cartoni animati. Eccola qui un'altra. Lei è un'eroina, lui un bamboccione, il nuovo Oceania, ed è un cartone femminista. Ma basta queste cose, ma fai che... Ma chi se ne frega!